invasivo, nel senso senza bisogno di aprirti e fare niente. È un sistema di operazione rivoluzionario che ha fatto questo qui, e i propri allievi, abbastanza giovani, infatti quando sono andato, è presente, stiamo parlando del 2018, 3 anni fa proprio, hanno operato al Nuoro, come si chiama lo stadio di Nuoro, non me lo ricordo neanche, comunque, e sono gli unici, lo fanno anche a Sassari, però me l'hanno sconsigliato, amici, ha detto lascia perdere, vai a Nuoro che ci sono gli allievi di cose. Infatti c'era la dottoressa Amadori, non so se la conosci, collegata direttamente con Milano a San Raffaele, bravissimi, giovani e molto intraprendenti, e sono gli allievi del professor Papuni che hai nominato tu. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, scusa ma ti tocca a te, era solo per rispondere. Sì, allora dunque guarda, tu parli da San Francesco di Nuoro, in cui la cardiologia e la aritmologia la fa praticamente Gavino Caso, che conosco anche quello. Quindi è chiaro che a Sassari, adesso Sassari per carità c'è gente brava, solo che ha le ali tarpate da certi personaggi di cui non possiamo parlare perché è meglio, guarda, non ne vale neanche la pena. A Nuoro sono tutti giovani, non ho visto che sono tutti giovani, adesso che è andato via Gavino Caso, sono un po' in difficoltà, ma tu pensa alla vostra sanità e anche la bravura di Caso, che andrà lo stesso a Nuoro a lavorare gratuitamente, quindi per non lasciare scoperta la parte nuorese della cardiologia, che ha fatto tanti passi avanti. Purtroppo non so se avrà successo a Sassari, perché io avevo anche detto non sa dove sta andando a finire. Comunque va bene, il punto è quello lì, non c'è niente da fare. A Sassari, guarda, se vai e non mi sta da fare, dico no, per carità del cielo, no, non ci va, ci sono tanti racconti da fare, ma non è questo il posto in cui farli. Riprendi Natalia. Sì, capo. Io sapevo che qua Sassari era un'eccellenza per quanto riguarda la cardiologia. Posso intromettermi un attimino, Gianfranco? Posso, Gianfranco? Sì, non ho capito, Roberto. No, posso intromettermi, diciamo, adesso l'hai fatto tu, mi sono dimenticato, la persona principale era Caso, professor Caso, non sapevo che fosse andato in pensione, lo stesso Luminare lui, ma lei è nata lì che sono inferiori, il discorso di lì sono più specializzati su quel tipo di operazione. La cardiologia di Sassari è famosa per il discorso, loro fanno il numero di decessi per numero di interventi, il rapporto, per cui è sicuramente ai massimi livelli, perché hanno avuto quell'anno, in quegli anni hanno fatto, forse gli è andata meglio di altri tipi di istituti, però il San Raffaele di Milano, anche se non è ai livelli magari di Sassari come numero di morti per pazienti e curati, però è un'altra, stiamo parlando di un'altra categoria di cose. E questi di Nuoro hanno il collegamento diretto, tra cui c'era primario questa persona, grandissima persona, famosissimo da tante parti in Sardegna, è un luminare, perché è uno di quelli che ha portato tramite questo tipo di sistema di operazione. Lo fanno anche a Sassari, lo fanno anche in altre città, a Cagliari, però quelli di Nuoro è detto da cardiologi, io sto parlando, mio cognato è un cardiologo abbastanza conosciuto, ha consigliato, ha detto vai a Nuoro che c'è questa persona, cerca Caso e cerca l'equipe sua, e sta di fatto è l'unico che ha risolto questo problema. Questa persona non è italiana, non aveva problemi economici, lo poteva operarsi anche in Svizzera, eppure si è fatto operare qua, per andare a Milano, per comodità l'hanno operata a Nuoro, ed era una persona che non aveva problemi di soldi e di andare anche da altre parti, però chissà perché questa è straniera, è andata a finire qua a Nuoro. Sì, Roberto, guarda, una correzione, per essere precisi, il professor Caso non è, il professor Caso non è andato in pensione, si è mosso solo per dirigere la parte cardiochirurgica di Sassari, attualmente dovrebbe fare la spola tra Sassari e Nuoro, a Nuoro ci sta andando gratis, giusto perché stavano sorgendo dei grossi problemi dal punto di vista organizzativo, perché non è solo Caso che si è trasferito e quindi si corre il rischio praticamente a San Francesco di avere tutta la cardiologia scoperta, tutto lì, quindi è stato un atto niente di generosità da parte sua di prestarsi gratuitamente a fare due lavori di cui uno gratis praticamente. Ed è così. Guarda, Sassari, ripeto, ci sarebbe gente brava, però è tarpata, quindi non ti posso dire il motivo e dal perché. C'ha le ali tarpate, devono volare bassi, tante di queste cose. Per uno che si fa un giro un po' in quel reparto, ci sono tante, c'è tanto lavoro, ma tanto, tanto. Non nominare neanche, non è possibile fare neanche un termine di paragone, perché non è possibile con San Raffaele, non esiste. Uno è un istituto di ricerca scientifica, questo che abbiamo qua è un ospedale, diciamo, a livelli, no, non lo voglio dire neanche, guarda, lasciamo perdere, non lo dico neanche perché siamo in radio, quindi è giusto non dire certe cose, però la fama è quella che è, purtroppo è così per noi di Sassari, purtroppo dico. E ne approfitto per salutarvi, rilancio natalino e vado a mangiarmi qualche cosa. Ciao Roberto, ciao natalino, riprendi tu natalino. Ciao Gianfranco, allora buon proseguo, buona cena quando la farai. 73, ok, riprendi Roberto. Ehi, ciao Gianfranco, hai sentito? Oggi è stato divertente, perché dalle antenne siamo andati a finire le operazioni chirurgiche di cardiologia, abbiamo fatto un bel salto, dai, parlando di argomenti abbastanza tecnici, diciamo. Comunque interessante, dai, speriamo che qualcuno magari sia servito anche utile come a livello informativo, con le poche informazioni che abbiamo potuto dare. Di nuovo a te, buon tutto, buona carica, io rimango anche io ancora un pochettino, con Natalino, poi senza qualcuno, se no ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao Gianfranco. Ciao, buona serata. Natalia, hai visto, il discorso è quello lì, cioè tu Sassari hai risultato 3 milioni in Italia rispetto a quello che hanno curato, per dire, se tu curi 100 pazienti e ne muoiono 2, c'hai un tasso di mortalità del 2%, perché negli ospedali funziona così, non è detto che quello sia migliore del San Raffaele di Milano. San Raffaele di Milano magari ne hanno curato 1000 e ne sono morti 40, però cacchio, hanno fatto delle operazioni molto ma molto più avveniristiche, più di ricerca, diciamo, sperimentali, eccetera. È come quando c'è un bambino, tutti, se c'è problemi di un neonato, di cosa, mica lo portano qua da noi, vanno tutti su a Gaslini, ospedali del genere, curano, e per dire, se ci sono problemi di cosa, di, come si chiama, di bruciature, di cosa, di ustioni, l'avanguardia a Palermo. Ci sono delle specialità dove a Verona, per dire, su certi altri tipi di cose, di patologie, ci sono degli ospedali all'avanguardia, e San Raffaele in questo caso sulla cardiologia è a livello mondiale. E te credo, non vorrei paragonare San Raffaele con l'ospedale di Sassari. No, ma non stiamo parlando di grandezza di ospedali, perché ci sono ospedali anche piccoli che sono all'avanguardia su un certo tipo di operazioni, per dire, sulla pelle ci sono degli istituti privati quando devi fare trapianti di pelle, cose di certi generi, e vedi lì la Villa Stewart, dove si operano tutti i giocatori di tutto il mondo, da Messi a Ronaldo e tutto, ci sono passati tutti i giocatori che hanno avuto il fortuna, tutti vanno a Villa Stewart a Roma, tutti lo stesso, amico mio lo stesso, che lui è ortopedico, abbastanza conosciuto qua, che lavora non dico dove, lasciamo perdere, il chirurgo ortopedico che vengono da tutta la Sardegna a farsi operare da lui, dalla sua equipe, perché era del gruppo di coso, di Melis eccetera eccetera, e lui è andato a operarsi a Stewart, Villa Stewart, per dire, perché di lì sono il top. Ogni branca ha la sua specialità lì, e quindi già lo so, quando mi hanno fatto lavorare con me, erano un'eccellenza a Sassari in chirurgia. La cardiochirurgia, poi c'era quello, aspetta come si chiamava, che aveva le mani d'oro. No. Portoghese mi sembra che si chiamasse. Dottor? Portoghese. No, non lo conosco. Il cognato di mio fratello è molto molto apprezzato. fatto, se l'hanno tirato, siccome lui va a tutto il mondo, tira tutto il mondo quando ci sono convegni eccetera eccetera, è un proprio cardiologo primario, e quando erano negli Stati Uniti se l'hanno arruffianato, gli davano stipendi di centinaia di migliaia di dollari rispetto a quello che può prendere qua, ed se qua ti danno 50.000 euro all'anno ti rivalci, lì ti davano centinaia di migliaia di euro e di dollari, per dire 4-5 volte quello che poteva prendere qua a Sassari, però ti dovevi trasferire tutto, ha detto no no, preferisco rinunciare, io ho i figli piccoli, adesso già beh, sono grandicelli, tre figli, e ha rinunciato, perché se no di lì si faceva d'oro. Le menti noi ce le abbiamo in Italia, sono a livello mondiale, grandissimi chirurgi, cardiochirurgi, cioè a livello mondiale sono tra i migliori, perché gli italiani sono famosi per quello, però purtroppo dietro molte volte, come ha detto lui, ci sono dei tappi che ti bloccano. Quando capiterà, qua non si può parlare, racconto degli episodi di altri tipi di campi medici, cosa è successo a riguardo di certi personaggi che stanno di lì all'interno, di storie allucinanti, bloccati, gente che aveva voglia di fare, bloccati, e passa l'amico dell'amico e l'amico del politico, perché deve passare. E quello che ha fatto il lavoretto a me, per esempio, se ne è dovuto andare, perché gli è passata gente davanti, hanno, gli tarpano le ali a certe persone, capito? Ha ragione Gianfranco. Se n'è andato quello lì, se n'è andato in pensione, proprio Bagosa si è rotto le scatole perché gli è passata gente davanti. Adesso ti dico un episodio, però non facciamo nomi di cognomi, ti dico solo la specializzazione, radiologia. Questa persona non ti dico chi è, però è una persona molto vicina a me. Questo qua lavorava in un ospedale non qua a Sassari, da un'altra parte, in un altro paese. Tanto di lavorando, un ragazzo che si dà da fare, molto appassionato del proprio lavoro, perché il lavoro del medico lo devi fare con passione, non fatto tipo macchina che c'hai un numero, tu sei un numero. Quando tu c'hai un rapporto con i pazienti come persona umana, non come numero, questo lo faccio e lo fa con grande passione, infatti è molto apprezzato nel suo reparto di radiologia questa persona. È andato a lavorare per un certo periodo di tempo in questo ospedale, l'hanno chiamato, ha lavorato di lì, è arrivato a un certo punto lavorando normalmente, senza fare niente di più, l'ha chiamato il primario, ripeto non faccio nome né di ospedale né di persona tantomeno, ha chiamato il primario e gli ha detto signor dottor Francesco, quello che dai non facciamo il nome, gli devo fare un appunto a lei, una segnalazione, mi dica cosa è successo. Lui tutto preoccupato, si avvicini che dobbiamo parlare, si è avvicinato la sera, si è avvicinato, ha discusso, guardi che lei mi sta facendo fare brutte figure, come le sto facendo, perché non sto facendo bene il mio lavoro, no, lei lo sta facendo troppo bene il suo lavoro, purtroppo il numero di interventi che facciamo noi qua, mediamente per dire sono 5, 10, non lo so, sono raddoppiati da quando c'è lei qua, questi tipi di diagnosi e questi tipi di cose, di terapie eccetera eccetera. E lui ci è rimasto, come? Si dia una regolata, cerchi di diminuire, come deve diminuire? Ma sta scherzando, io non posso diminuire, se viene una donna che ha un problema al seno, di un tumore, una cosa del genere, devi intervenire subito, non puoi lasciar correre. E questo gli ha fatto lo scandalo, ha pigliato il rimedio e se n'è andato in un altro ospedale. Lui poteva venire in un altro ospedale anche qua a Sassari, ha preferito andare in un altro ospedale perché dice ci sono degli ambienti allucinanti in medicina, gelosie, ma cose da entrare la giustizia. Sì, infatti non è quello che stava dicendo Gianfranco e che ti sto dicendo io, è quello. Ma poi la cosa più brutta, loro tra di loro, tra i medici, lo sanno chi è competente, chi ne capisce, chi è tonto, chi non ne comprende nulla, e lo sai tra di loro, e molte volte vedi delle cose, situazioni. Infatti questa persona che è andata a farsi operare, che era a Milano, che poi è andata a finire a Nuoro grazie a questo dottor, al professor Casu e altri, il cognato di mio fratello, che era una persona che nel mese ha detto vai direttamente da lui, vai di lì, cerca questi e quest'altri, per dire, e tra di loro, ma quale? Lascia lì, non andare di lì, perché avevano fatto altri metri, non c'è andare da quello lì, detto da me, dicimi, gente che è del metro, meglio andare di lì che sono più specialisti, e così succede su certi altri tipi di patologie, perché uno, vuol dire, e mio fratello adesso, è andato, il figlio si è operato, aveva dei problemi, ha avuto un incidente in moto tanti anni fa, è giovane, c'era di che anno, del 98, quant'anni c'ha, 23 anni questo ragazzo, si è appena fatti tra l'altro, e gli hanno sbagliato un'operazione che ha avuto una frattura sotto e stava camminando male, si trasciava. Hanno visto questo ortopedico che è capitato, che gli aveva consigliato un medico qua di Sassa, e fatti vedere a questo. Hanno detto, ma cacchio, questo l'hanno rovinato. Ha detto, vieni qua, qua bisogna intervenire subito. L'hanno operato prima una gamba e poi all'altra, per cercare la verità. Era proprio 2 settimane fa la seconda operazione. E così mia sorella, che è andata proprio oggi a Cagliari, quando l'ha vista, ha detto, io non so come fa lei a camminare. Ha detto, adesso dobbiamo fare un'operazione al bacino, perché ha avuto problemi da piccola e l'hanno arruinata. Gli hanno messo dei ferri che li rascano. Adesso diceva, devono operare, lei ritornerà a camminare. E mia sorella trascina la gamba. Quando l'ha vista, ha detto, io non so come fa lei a rimanere in piedi. E tu la vedi, quella piccoletta, poi se l'hai conosciuta, la Natalie. E infatti adesso, proprio stamattina, è andata a Cagliari a fare tutte le operazioni di controllo, eccetera, eccetera. E tra una settimana la devono operare. Avanti a te, Natalie. Già lo so che succedono queste cose. Facciamo venire avanti chi vuole entrare. Avanti. Chi era avanti? Sta parlando, aspetta. Come è copiato roba? Ma che è un po' grigio. No, poi sei da produttore, se non mi ricordo il nominativo. Mi ascolti? Sì. Sì, segnale 3, radio 4 da me, dai, Natale, non lo senti? No, non l'ho sentito perché c'ho lo squelci inserito da stamattina, che c'era una propagazione bastarda e chi più ne ha più ne metta, e allora ho dovuto inserire lo squelci, quindi più bassi non li sento. Vediamo un po', Robert, tu lo senti? Ma che altro, non lo sento basso, Santiago sì, ma è mezzo al QRM, sta parlando però non ho capito, avanti, tu sei Antonio? No, non è Antonio, non mi ricordo il nominativo, comunque di portatore sicuramente. Ma sta arrivando basso, sì, è qua, però lo sento quasi mezzo al QRM, normalmente il portatore si arrivano 9 qua. Vabbè, dai, io chiudo, vado, volevo entrare più per dirvi che stavo entrando, se ci siete dopo, dai, a dopo, ciao. E io ciao Luca, che adesso anch'io tra poco vado a mangiare, poi magari ci sentiamo dopo, dai. Vai Natalia. Sì, cappala. Ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Ma ti sei abbassato Natalia? Come? Ti sei abbassato un po' di segnale. Io? Sono 2 watt e mezzo. E se 9.10, eri quasi 9.20 poco fa. Sei sicuro, esci a vedere. Prova a vedere. Sì, adesso sei 9.20. E allora perché l'avevo abbassata io la radio? Non c'è bisogno di uscire con tanti watt. Per Sassari, basta e avanti. No, no, ci mancherebbe. Pensavo avessi avuto qualche problema perché ho detto, cacchio, 10 punti e ti sei abbassato. Ho detto, di colpo così. Purtroppo cosa ci vuoi fare? Per cui quando si fanno queste cose, grazie a Dio noi qualcuno già lo conosciamo, qualche medico bravo, lui ti dice, mi vai da questo, ti faccio parlare con questo, perché quando sono a tanti anni all'ospedale le persone sanno chi è che lavora bene, gente per dire pensionati, medici pensionati, dice mi vai a nome mio da questo, oppure mi aspetta che ti metta in contatto con questo amico che lui ne sa più di me e ti dice dove andare, ti deve andare così, perché se tu vuoi la scatola chiusa, mamma mia, se sei fortunato va bene, se no secondo che ha capito. Certe storie mi hanno raccontato a me, ma gente arruinata, gente che esce dal giornale pure. Ma se hanno all'ospedale di Sassari hanno sbagliato ernie. A me infatti non mi sono occupato d'uccare a Sassari. Mi ha toccato uno che viene da Nuoro, uno giovane, capito? Praticamente lavora al policlinico. No, non generalizziamo, Sassari è un bell'ospedale, ci sono delle brave persone, bravi medici, però ci sono come tutte le parti qualcuno che non ci sta a fare niente di lì dentro, non si fanno nomi perché non se ne fanno, mentre ci sono dei bravissimi medici, bravi chirurghi, il pronto soccorso di Sassari ci sono dei bravi, bravissimi medici, però se ti capiteggia la volta male e magari quel medico non c'è, te ne capita uno che l'hanno messo a sostituirlo, se sei fortunato ed è capace, come quel ragazzo che è morto, l'hai visto quel cantante? Che è morto, quello Mirko, non so che cosa, che gli hanno diagnosticato una cosa febbrile, dice, leggendo la cosa di febbre, c'aveva una leucemia fulminata, diciamo, è anche sfigato, è stato, perché magari se te lo diagnostica un altro te la trova subito, come un amico mio che gli ha salvato la vita, gli hanno amputato una gamba, questo, però ha trovato un medico che conosceva quel batterio, subito, immediatamente, gli ha dato la terapia, dice io ringrazio la vita a questo medico, 3 anni fa è successo, questo amico qua, è stato preso un batterio, delirio, nel giro di poche ore ha rischiato di morire, alla fine gli hanno amputato la gamba e l'hanno salvato, perché questo medico è riuscito a riconoscere questo problema subito, immediatamente gli ha bombardato di antibiotico, questo antibiotico specifico gli ha salvato la gamba. Se mai ti capitava un altro medico, questo è successo a Sassari per dire, e noi critichiamo, eppure ha trovato un bravo medico e gliel'ha diagnosticato. Sì, lo so. Come in tutti i posti ci sono i bravi e quelli che non ne capiscono nulla. Non è solo a Sassari che capita, per esempio a Luca, ancora a chiamarlo sono, gli hanno fatto tutte le cose che gli dovevano fare e ancora è in aspettativa, ha detto vai e fai un coso arbolecnica, Giudizio, ti offre giorni subito. Dove sono andato io? Perché deve fare quell'operazione che hanno fatto a me. Guarda, io ti racconto un episodio, quello proprio di incuria, di menefreghismo. Diversi anni fa mia suocera è caduta e si è fratturato il gomito. Io ero di lì a casa, mi ha chiamato, sono andato, io non sono medico assolutamente, però per questioni di sport ne ho visto tanti di infortuni, soprattutto al gomito, alle gambe. L'ho presa, ho manipolato, ho fatto la manipolazione, ho detto sì, qua c'è una frattura, secondo me c'è una frattura, non è un ematoma per dire che male ti fa male, te ne accorgi quando c'è una frattura dalle reazioni della persona. Ripeto, non sono un medico, ne ho visto tante, per cui qualche piccola esperienza sono andato di lì, l'ho accompagnato al pronto soccorso, siamo andati, perché il marito non c'era, il giorno era fuori a Milano, stava lavorando, l'ho accompagnato, siamo andato lì e gli ho detto, guardi, secondo me c'è una frattura, gli ho detto braccio destro, gomito del braccio destro, sì, sono salito, aspetti che facciamo le radiografie e vediamo un pochettino. Dopo un pochettino che ci hanno fatto aspettare, ritorna e mi dà il referto, guardi, non c'è niente, secondo me è strano questa cosa, perché la signora sente dolore e c'è qualcosa, secondo me. Dopo un po', cacchio, prendo le lastre, controllo le lastre, dico, ma cacchio, questo è il braccio sinistro, non è il destro, cacchio, l'ha levato le lastre, è il braccio sbagliato, e lui se ne tu fai conto, niente di grave, perché poi gliel'hanno rifatte e c'era la frattura, cacchio, c'era il primario che li ha affrantarati a questi due giovani, deve essere a divertimento, erano in chibi di quelli giovincelli, cacchio, te li ha affrantarati, per dire, tu fai conto, anziché essere una piccola frattura, forse è un problema, cosa ti posso dire, una costola deformata che ti spinge su un polmone, una cosa del genere, tu fai conto, una cosa più grave, cacchio, tu cosa ne sarebbe successo? Eppure è stata sfigata, io l'ho visto, ho detto, ma cacchio, ma questo, ho detto, anche se l'altro è al contrario, negativo è al contrario, ho detto, questo è dell'altro braccio, poi l'ho visto, ho detto, cacchio, abbiamo fatto l'altra sbagliata, e infatti era sbagliata, ha controllato, c'era la frattura, l'altro si sono scusati, il coso gli ha affrantarati forte, il primario, una figura di merda, e purtroppo capitano queste cose. Sì, e a me non mi è capitato che il primario di ortopedia di Sassari ha portato la suocera all'ospedale Marino, che li ho portati io con l'ambulanza, e lui era il primario di ortopedia di Sassari. La suocera l'ha portata all'ospedale Marino. Hai detto bene, quella persona che stavamo nominando, oh vabbè, non dico particolari, era di quella zona lì, diciamo, non diciamo il particolare, perché su certi tipi di coso, su certi tipi di infortuni di ginocchio, di coso, quello sulle Marino sono all'avanguardia, perché sono della scuola di Melis, del prete, eccetera, eccetera, e hanno un po' di esperienza, come Ozzieri prima era all'avanguardia su quel tipo di infortunio. Sul braccio il policlinico andavano alla grande, però sulle articolazioni inferiori, Alghero, Sale Marino in particolare, erano molto ma molto, addirittura ne venivano anche da Cagliari, molti giocatori di Cagliari si sono fatti operare lì proprio perché erano bravi. Sì, infatti, ma quando mi è capitato visto, mi sono comunque che arrivi a Azzurra, ho detto che sono il primario che fa operare la suocera in un altro ospedale. Però quella persona che ti ho nominato io, è giocatore di calcio, ha avuto un infortunio, che lavora lì, chirurgo, proprio del posto che abbiamo nominato noi, per lui personalmente, pur essendo bravissimi, si è fatto operare a Villa Stewart a Roma. Tanto bagaglio stato, non me ne ho fatto nulla, perché si poteva far operare ai colleghi, però dicendo io vado a Villa Stewart. E voi di Sambia, Edu, cosa fa? No, ma non tanto per il resto, anche per le rifiniture, che abbiamo le rifiniture, quando ti mettono i punti di sutura e cose. A me mi racconta sempre un amico mio, che lui ha avuto, la moglie ha avuto l'attacco di appendicite in Corsica, ma tanti anni fa. Quando mi ha fatto vedere il taglio che gli hanno fatto, io sono rimasto a bocca aperta, cacchio, così piccolino, e poi mi ha fatto vedere il taglio che hanno fatto a lui anni prima, 4 volte più grande. Infatti ha detto, guarda mia moglie, guarda il taglio che hanno fatto in Corsica, non stiamo parlando a New York, Los Angeles, in Corsica, che è un'isola come la Sardegna, eppure ci ha trovato questi chirurghi, dice, bravissimi, perché tu quando ti aprono per fare un certo tipo di operazione, cacchio, dabbri in profondità, per cui se ti fai un trappo bello largo, cacchio, i postumi te li senti per un po' di tempo. La moglie ha 2 dita di coso, di taglio, una cosa impercettibile, tu la devi vedere, cacchio. E lui, la stessa operazione fatta qua a Genova, però l'hanno fatta, molto ma molto più grande, per dirti. Poi magari lui è andato a vedere, perché c'è un bravo cucendo, una cosa del genere, oltre che l'operazione, magari sono più bravi, più specialisti, e cacchio, tu la cicatrice l'hanno rimesso in piedi dopo poche settimane, lui era già in piedi. Lo so. E a me quando mi hanno operato, la mattina mi hanno operato e la sera me ne sono andato. Dipende da certe operazioni. Adesso c'è una brutta notizia, mi ha dato una mia amica l'altro giorno, di lì il figlio di nascosto, e gli ho detto, perché cacchio gli avrei preso il figlio, c'è proprio sui 21-22 anni lo stesso, c'ha, no, forse era di più, 23-24 anni, la moto si è comprato, non ha le battente nulla, è andato a farsi un giro e si è frantumato, si è spaccato 3 costole, lesionato il polmone, spina dorsale e tutto. Ma era male che ne è uscito con le penne, sono riuscito a salvarlo, così, per dire, adesso è capitato di lì, adesso è contento, si è bruciato le tratte. Infatti, uiga, mamma mia, le costole, uiaia. Ma la cosa più brutta, lo stanno nutrendo con la flebo, perché non può andare neanche di colpo, non si può sforzare, perché ha toccato anche la colonna vertebrale, ha fatto dei danni anche di lì alle vertebre e tutto. Ha detto, già ti è uscito il conto, per uscire erano mezzo alle grotti con un altro amico suo, l'altro con la moto più grossa, facendo deve essere gli scemi. Cacchio, l'ha telefonato, dice la madre, ha avuto un presentimento perché ha sentito l'ambulanza, ha detto nel patto comunale, ha sentito l'ambulanza, siccome era uscito il figlio verso le 5, avevano tardi la notte, e ha sentito la moto mettendola in moto, sono usciti insieme a questi altri amici, dopo un po' sente l'ambulanza, cacchio, dice, ha avuto un presentimento, ha chiamato il figlio e non gli rispondeva, e ha risposto il compagno che era vicino, oh, qua Gabriele è caduto, si preoccupi, eccetera, cacchio, adesso è in ospedale, gli ha lesci un gonto, ha fatto il vito facendo lo scemo. E allora, non hanno pesce. Prova a entrare se c'è qualcuno, se no farò qualcos'altro. Dai. Ciao Natali, buon tutto, buon proseguo di serata, io stacco anche io e poi magari dopo vediamo un po'. Dai. Ciao ciao, alle prossime. Ciao Robe, ciao, alle prossime. Oh, Roberto, tu sei? Sì, sì, tanto stavo provando una cosa, stavo guardando le stazionarie. Ah, il capo, come te, sta poccio? Sì, sì, no, siccome c'ho l'accordatore esterno e stavo vedendo come saliva, come regolavo, rispetto a uscire diretto, con questo accordatore posso andare anche in diretta, l'antenna diretta oppure regolare, stavo guardando se era tutto a posto, ma non c'è quasi differenza tra accordato e niente, posso abbassarle un pochettino accordato, ma talmente sono basse e non ce n'è. Qua è accordato 1.1 o 1 è qualcosa, dai. Questo è un apparecchio molto preciso della Magnum, quello grosso con l'accordatore da 3 kW addirittura può tirare, pesa 20 kg. Me ne ha dato un amico mio, uno amico, proprio già lo conosci qua, qualche volta in radio entra, Bracco, il suo, stavo guardando, ma l'ha fatto, mamma mia, l'ha arruinato. Cosa vuoi fare? Ho già sentito questo. Sì, sì, ho già sentito. Giovanni, radioamatore. E ogni tanto entra. Adesso è la moto che non entra. Infatti l'ho detto, ma è sempre impegnato in campagna adesso, perché lui c'ha la campagna a Torralba. E suga. Mi ha di a Torralba, anda. Sì, sì, lui è originario di quella zona lì. C'ha un paio di terreni, ma ne ha uno grosso. Lui produce un sacco di frutta, poi la vende, non so cosa ne fate. Caffa, devi arrigarti da un bobo, che l'assaggiamo. Allora, se il bobo ne mangio di frutta, lo sai quanto mi piace. Poi lui c'ha un bel di susine, di queste cose così, è pieno, ne espone, ma soprattutto susine, e poi non parliamo fichi d'India. Mi, chi si piazza a me? Chi si proprio di ciò che buccia a me puro? Ma li devi mettere prima in frigo, per farle, li metti sotto l'acqua e poi li metti in frigo. E poi con il leva, li faccio due o tre risciacque e poi li buccio. Cosa? Non lo dimmo io, no? Non è che ne mangi molto, a me, ma lo sai quante me ne regala, poi li do a mio fratello, lui si fa porco. Io, non è che sia uno di quei frutti, come ti dici, i sabbi, perché c'ha questo cacchio di semini dentro. Sì, lo mangio, ma non è che ne vado matto, ne posso assaggiare uno, ma no, li fammi a porco. Oh, io già la mangio, via. A me piacciono un bel le pesche, le susine, le nespole, le albicocche, quelle, le ciliegie, le fragole, tutto la mangio la frutta. Tranne il limone e il pompelmo, proprio vabbè via. Vabbè via. Mandarini, arance, banane, tutti i tipi di frutta che crescono in salto. Mentre i ragazzi di adesso andano in tutti questi frutti strani, il mango, il kiwi, proprio una fruttinuta, no? L'angura, il melone mi faccio a porco. No, il limone, bevo la limonata io molto, mi piace. Ma cosa ne comprende chi ci bizzini da fa? Sono sciabbi di ebu. Adesso me, il limone l'ho fatto il limoncello, me l'hanno dato, questo amico c'ha la campagna, quello che sono andato ieri tra l'altro, l'ho fatto, mi hanno detto io non l'ho preso, perché a me non mi piace, perché è troppo, mamma mia, mi spinge troppo. L'ho fatto, tutti hanno detto che era buono, anche se forse ero un po' troppo alcolico, infatti ho fatto la seconda dose, l'ho fatto un po' più diluito. No, io lo faccio bene, io proprio quello mi lo so fare, sono anni che non ne faccio. Adesso devo prendere dei limoni e lo devo fare. Quello lo so fare bene, il limoncello. Io ho fatto il limoncello, il mito che mi hanno detto che era tutti biliardi in giro, mio fratello, chi sa la cagata, quando l'avevo mangiato sono rimasti a bocca aperta, è troppo buono, ma boh. E poi ho fatto, che non ho ancora tolto fuori, anche c'è pure troppo, da novembre mandarinetto, quello ancora lo devo tirare fuori. Capa, eppure io ne... Adesso sono un po' di tempo che non ne faccio più di queste cose. Però lo voglio rifare, lo voglio, il limoncino, perché io lo facevo molto buono e piaceva a tutti. Me l'ha imparato, me l'ha detto una sussinca come si fa, e io seguo quello che dice lei, ed è buonissimo. Adesso, come iniziano i fichi d'India, voglio fare quello dei fichi d'India che mi hanno detto che è il migliore di tutti, cioè come gusto fresco, dice, proprio spettacolare. la picca d'India per abbonare Trento, così è. Sì, sì, sì, metti il fico d'India dentro, lo lasci macerare per un po' di tempo, almeno 40 giorni si lascia. Però io, come ho fatto il mito, lo voglio fare in due modi, lo faccio di puro, nel senso senza, con le bacche lasciate stare, con i frutti diciamo, e poi preso solo il liquido, oppure ho comprato il torchietto per schiacciarlo, lo voglio fare con lo schiaccio, con l'acqua non l'ho fatto. Scappa. È la picca d'India, quanto mi devo di picca d'India? Ma dipende da quanto c'è il contenitore, se tu c'hai un barattolo tipo quelli, cioè presente quelli col coperchio ermetico che lo apri a molla, lo prendi e ce lo metti dentro e poi lo riempi di coso, di liquore, di acqua a bocca, poi ogni giorno lo prendi e lo giri, lo tieni 40 giorni così, dopodiché togli tutto quanto, se vuoi tenerti solo il liquido ti tieni solo il liquido, se lo vuoi fare ancora più concentrato l'essenza lo metti a schiacciare col torchietto. Però, e poi ti fai le dosi che vuoi tu, se lo vuoi più alcolico o meno alcolico. Cappa, quanto me ne vuole di cose, di figa d'India? 8, 9, quanto me ne vuole? Tanto dipende da quanto è grande il contenitore, se va una damigiana lo devi riempire di figa d'India, se c'è un barattolo ce ne stanno 3, ne metti 3, l'importante è che venga riempito a bocca dall'alcol. Io adesso voglio fare con quei contenitori, c'hai presente quelli con le conserve con la marmellata, quelli grandi da litro che c'hanno la molla a chiudere, quel cicolanello e poi chiudi. E lo fatti anche qui dentro un limoncino. E ci avevano, trattava 9 limoni usavo. Tra 9 o 10 limoni usavo. Dipende da quanto erano grandi. Ma perché il limone intero mettete? No, li spellavo. Ah, è quello che sto dicendo, no, io li riempivo completamente. Siamo stati 2 giorni facendolo, ne avrò messo una trentina di limoni io, ma ogni pazienza per farlo. L'ideale è avere quello sbucciapatate, con quello lì fai più in fretta. Riparte che la parte che non arriva in profondità, me lo metti dentro, io l'ho riempito completamente, ma mangio molto poco di limone. Mentre col mandarinetto puoi prendere la buccia, la fai a pezzettini, non c'è bisogno. Il limone deve fare cosa? La mia amica invece aveva fatto la marmellata di angurie, se tu tanto vedi come si fa la marmellata di angurie no, ti fa bene. Che mara! Dove prende 9 e 10 limoni, li spelli tutti, limoni un litro di alcol, da voi cosa fai? Pigli la goccia, prendi un pacco di zucchero, ne togli un po' fino ad arrivare al 9%, vai. E poi prendi un litro di acqua e lo buoni dritto, ti chiudi tutto in mezzo e fai lo sciroppo. Da voi quando è pronto lo sciroppo lo fai raffreddare, lo filtri e ti buoni tutto in mezzo. Ah, ma tu lo fai poco alcolico, quello mio è molto più alcolico, e poi lo faccio a freddo, a caldo molte gente me l'ha sconsigliato, gente che lo fa per lavoro, dai, gente dei paesi, gente così, mi ha detto no, non conviene a caldo, è meglio che sia acqua buona, però detto, l'acqua è fondamentale, che il limone non sia trattato, deve essere limone proprio di quelli senza trattamento, se no c'è una gaggata. No, con un limone non uso quello trattato, non ne uso manco per sogno, uso quello lì, ti ho detto, io mi ci metto un litro di acqua, metto e faccio lo sciroppo, poi lo faccio raffreddare, poi il limone lo filtro, lo colo e lo metto dentro e poi lo giro, non è pronto, poi lo torno a rifiltrare, lo torno, non faccio tanto sul travaglio. Sì, ma tu lo fai un po' più leggero, no? Quello che faccio io è molto più alcolico. Il mito, cioè assaggiavi il mito, cacchio, un goccio ti cribava, anche se devo dire ci sono 2 ricette, c'è un amico che ne fa 80 litri di mito, c'era non so quante piante, no, mi pare c'aveva 200 piante, e ne fa di media 80 litri ogni anno. Questo qua c'è una campagna e lui lo fa molto diluito. C'è un altro amico, questo di coso, di dove cacchio è questo qua? Ah no, quello che ti ho detto prima, di Torralba, quello lo fa puro, ma ne bevi un goccio di quello è come ti ha bevuto il veleno. Enoch. Lui dice, ne devi bere un goccettino, non è che ti ne devi una tazza. Dice, questo serve proprio per sfurgarti. E lui lo fa puro, non ne mette di zucchero. Ma così ammazzate. Ci mette un pochettino di acqua, per dire, anziché fare a 96 gradi, lo fa, gli abbassa la percentuale, arriva sui 48, ma con i fuoco, se metti un raggio in un fiammifero, mi li avvuco, una cosa. No, io l'ho portato sui 40 gradi questa cosa, e va bene, perché è giusto avere una giusta gradazione, perché se lo fai troppo leggero si varrà troppo impresso, ma deve essere una cosa abbastanza densa, diciamo che, tipo, cosa ti posso dire, non dico che ti posso descrivere, deve essere abbastanza denso, non troppo liquido, troppo anacquato. No, così no, deve essere giusto, deve essere, come lo faccio io esce giusto, esce. Se no è troppo bizzante, ti fa deburumare. Deve essere giusto. Sì, ma tanto tu lo devi prendere come un digestivo, non come una bevanda che te ne bevi un bicchiere, no. Tu devi prendere un bicchierino, una punta, due cucchiai di latte, due cucchiai grandi proprio per toglierti il sapore, dai, per sentirlo. Ma cacchio, se lo fai diluito troppo, tu forse lo fai, che lo possono bere tutti, anche le donne, i ragazzi, cose del genere. È un altro tipo di ricetta quella lì. Allora dice mi darà niente, no? Cioè ne bevi un bicchierino e ti imbriagheggiami quello che faccio io. Sì, no, io le gradazioni, allora. Nel mirto, dopo che ci metti un litro di coso, di composto, diciamo, cioè un litro di alcol decantato con tutta questa roba qua, col mirto, li mettevo 400 grammi di zucchero e diciamo 700 cc di acqua, più o meno, però poi te lo puoi cambiare anche la gradazione, ed era abbastanza forte e andava bene, qualcuno ne mette di meno e qualcuno ne mette di più, dipende da cosa vuoi fare. Io con la gradazione che ho fatto io va bene, adesso devo farlo, siccome sta decantando sempre con le spezie, l'ho fatto a ottobre, pure troppo, mi ha detto che l'ha lasciato pure troppo, ho comprato il torchietto per schiacciarlo e lo devo schiacciare, ma non ho tempo di niente, mentre il mandarinetto non ho ancora avuto modo di farlo, cioè l'ho messo sempre a novembre, ma lo devo togliere, chissà come esce, perché mi ha detto che più lo lasci qualcuno è meglio esce il mandarinetto, e altri no, non lasciarlo troppo, sennò esce uno schifo, adesso vediamo. Un paio di settimane almeno ci vogliono. Allora dicono 40 giorni e poi vuole fatto in un periodo, io già l'ho fatto nel periodo giusto perché l'ho fatto da ottobre, fine ottobre ce l'abbiamo bevuto a dicembre, a Natale, Natale, dai quel periodo di lì, il 25, no la notte, il 24 non sarà andata nessuna parte, è il pranzo di Natale, così limoncino. Però ho detto da chi beve parecchio, che li conosce, mi ha detto che è uscito veramente bene il mio mirto. L'ho fatto solo scuro, perché questo amico che li fa proprio per produzione, lui lo fa sia bianco che rosso. È buono, ma secondo me non devono superare, non devono essere troppo forti, perché poi no, non vanno bene, non è beve quasi nessuno, magari lo bevono gli uomini e le femmine non bisogna nulla. Infatti tanto dipende da cosa devi fare, se lo devi usare come digestivo ci vuole tipo quei bicchierini da whisky, quelli piccolini, ma una versa da piano piano, e con quello lì non devi esagerare, perché con quello ti ubriachi, stiamo parlando 45 gradi, se ne bevi mezzo bicchiere sei gutto, cioè non sei abituato, e le donne mica lo bevono quello lì. Poi se invece lo vuoi fare assaggiare anche alle donne, come digestivo più leggero, lo puoi fare anche con più zucchero, con più anacquato, diciamo, dai, dipende tutto da cosa devi fare. Questo tipo mi ha detto, questo che ne fa tanto, mi ha detto, la specialità è fatto con i fichidini, se tu attacchi il distillato di fichidini, è una cosa spettacolare. È buono, già. Eppure lo voglio brumare, lo voglio punire a moglie con un litro di... alcol, a vedere cosa annisce, e dopo riporto tutto il composto io. Ma lo sai cosa fanno degli amici, non qua fuori, prendono il limone o coso, l'arancio, dice dove l'arancio, scusa, il mandarinetto, prendono la pianta, ci mettono una bottiglia di succo di frutta, di quelli in vetro, quando sta crescendo la pianta, che c'è il frutto piccolino, lì infilano in modo che entri nel collo della bottiglia il frutto, poi lo chiudono bene bene, lo si girano e lo riempiono di coso, di, cioè quando, così quando è grande cresce all'interno il frutto, dentro la bottiglia, tu vedi il tuo limoncino dentro, cresciuto dentro la bottiglia, dice, ma quanto ha fatto? Dopo che è cresciuto dentro, prendono l'alcol, lo mettono dentro e lo chiudono. Non ha fatto mia cognata una cosa del genere. Decido. Dice che è buono. Cappa. Ho pensato di farlo così, ero pensando. Le buone la piccata india, anch'io, dritta il barattolo. Per me un sì, è abbastanza mano, sì, se ti picchi d'India andare bene. Se pongo un litro d'alcol, o se non ne pongo appena appena di manco, dipende che altro sono manne. E il rago macerà un rago, cioè il rago, un paio di ghite, due o tre ghite. E da bonero poco. E faccio tutto il composto, sono convinto che c'è buono. Ma mi devo informare, se il frutto lo devi mettere intero o spezzettato, fatto tipo a fette. Voglio chiedere così, se come è preferibile, perché questo lo fanno, dico, sono quei pastori, lo fanno per professione. E gli voglio chiedere se conviene metterlo tutto intero oppure tagliarlo a fettine e riempirlo tipo come fa il mandarinetto, che ci metti tutte le foglie, mille foglie, la buccia del mandarino. È davvero di figura però, di figura beh. E non che beh, però adoro di chi c'è Biras, quello che vende tante le cose, c'è i filtri, va tutte tante le cose. E lo sai come te lo fazia, con il razzo, l'antica. Sì, gli anziani usavano anche le calze in nylon, un sacco di cose, ci sono. Io l'officina mi ho preso i colini, quelli che usiamo per la vernice ad acqua, che sono di tutte le maglie, di tutte le gradazioni, ci sono molto sottili. Ho usato quello lì, ma poi ho preso dai cinesi, c'era rimbuto già col colino incorporato. Lo so, Guglia, ma bisogna farla fino, fino, fino, fino proprio. Sì, queste che abbiamo noi, cacchio, non ci passa neanche un cappello talmente, anzi, devi aspettare per farlo decantare. È troppo roba sintetica, chissà. Come? Non è che è troppo roba sintetica. No, è carta, si usa, è roba sterile, non è roba, si usa anche per altre cose, non è roba di metallo. Quelli che usiamo in officina sono dei colini in carta, hanno la retina in nylon sottile, sottile, tipo, non so se sia nylon o cosa sia, è pulito, mica è brutto. Io qui si raggio comparate, non che sopra raggio comparate, una di... E gliel'ho messi, ma farà, e poco vi puria. Guarda, io conosco uno, ma stiamo parlando tanti tanti anni fa, quando il gasolio non era buono come adesso, il gasolio è talmente filtrato, è talmente trattato perché per il discorso dei iniettori con Morelli, deve essere perfetto. Questo qua si comprava il gasolio, cosa vuol dire? Abbiamo andato a burlare il gasolio, sotto c'aveva il rubinetto, lo riempiva, se la faceva riempire, e metteva il rubinetto sotto nella tamburana, se aveva fatto. Poi prendeva una visiera lui, Ghizio, bagante la mancanti, una visiera e faceva scendere questo gasolio, doveva attraversare la visiera, ci stava due giorni solo per riempire 5 litri di gasolio, lui la macchina sua andava sempre con questo sistema qua, non cambiava mai il filtro del gasolio, però stava 3D solo per farne colare il gasolio. Gioca. Ma il gasolio allora era più grosso come? Perché il gasolio prima è tipo il gasolio agricolo che usano, vabbè adesso anche il gasolio agricolo è già buono, ma prima era un bel denso, io mi ricordo quando avevamo la caldaia a gasolio da 30 anni fa eccetera, adesso sono tutti a gas, anche si sporcavano le inietture, ci sporcava, andavi a vedere c'era sempre una cosa, un peluzzino, una cagattina che ti bloccava, non faceva sfruttare bene la caldaia, adesso il gasolio è limpido, pulito, tu lo guardi contro luce, non ce n'è di mondezza, a meno che quando, per dire, se non l'hai fatto quando fai il riempimento dei serbatoi, il distributore devi aspettare almeno qualche ora per il modo che si depositi tutta la sporcizia, se no molte volte tutto il fondo quando con la pressione che c'è si muove tipo l'acqua di mare, quando si scotte tocchi la sabbia e vola tutta la sporcizia, diventa turbida, e questo qua lo faceva così per colarsi il gasolio, usava una visiera. Dice che per i motori che c'erano all'epoca, per il gasolio che c'era allora era meglio. migliore, dicono molti. Diciamo, come livello di sostanza era meno inquinante di adesso, perché adesso mettono degli additivi che sono molto molto cancerogeni, molto più di prima, come la benzina. Prima invece c'era lo zolfo, non era così pericoloso. La benzina verde da una parte va bene per il catalizzatore, tutto quanto, però per il resto c'è del piombo, degli altri additivi che sono peggio di prima. Infatti tu non lo senti l'odore magari della benzina, però già l'organismo già lo sente ed è molto molto cancerogena. C'è la benzina e il gasolio per certi versi. Infatti mi hanno detto che molti motori vecchi gli aggiungono l'olio per essere un pochettino più grogumi, capito? Sì, i motori vecchi, quelli a benzina soprattutto, siccome il punto di combustione è molto più in alto rispetto a prima, per cui non rimangono ceneri, mentre la benzina col piombo, c'era un po' di piombo, la serie delle valvole veniva lubrificata dal piombo, diciamo, rimaneva una patina protettiva. Adesso vabbè, li hanno tutti migliorati, i motori li hanno rinforzati, le serie delle valvole, ma all'inizio le macchine vecchie, quando c'erano le vecchie serie di valvole, cosa che si bruciavano i motori, tipo quando c'era l'impianto a gas, bruciavano la serie delle valvole e non tenevano più, per cui il motore non rendeva più come doveva rendere. Adesso i motori sono molto più robusti, hanno rinforzato la serie delle valvole, ma all'inizio per le macchine Evoque era un bel problemino, dovevi aggiungerci un pochettino, molte volte anche un po' di gasolio, si metteva qualche goccia di gasolio per avere lubrificazione nella riscata, oppure degli additivi insieme alla cosa, alla benzina, se no rovinavi i vecchi motori ad alta compressione. Mi ricordo che c'era l'additivo, c'era. Sì, già lo so, le macchine Evoque infatti vendono anche, oltre agli additivi, addirittura quando fanno dei percorsi gravosi e cose del genere, ti davano proprio le benzine speciali, quando ci sono le gare di autosturi, che quando usano certi tipi di macchine ci vuole una benzina con più ricca di ottani. Già la vendevano prima, la benzina ne bucata. Raggi per la vendeva. Sì, io lo so. Ecco di tu, la super o normale di benzina? Vabbè, tu sei giovane, ma quando eri ragazzino, vera, cosa prendi? Super o normale la benzina? Lo so già, è miscela che non vera. Tu non l'hai conosciuta la miscela quando te la facevi tu, che c'era una specie di cilindro in vetro, c'erano quattro tacche, per dire 4 litri, e poi dovevi tirare con la leva, tac tac, per fare uscire l'olio e riempire, la dovevi fare a due, c'era una manopola, giravi, usciva un po' di olio e pompava. Un ragazzino quando l'ho conosciuta io la pompa così, e c'era Sì, ero anche io abbastanza giovane, però te la facevi tu la miscela, c'era una leva, tiravi, la manopola sotto, poi adesso sono tutti con lubrificazione separata, ci hanno il serbatoietto dell'olio, poi sono la maggior parte le moto adesso sono 4 tempi, 2 tempi non ne vedi quasi più, almeno pochissime. Io la faccio la miscela per il decespugliatore e lo so quanto ce ne va. Ce ne va, il mio va al 2, io la faccio per litro, la faccio proprio per non sbagliare mai. 20 ml di olio ci vanno per un litro di benzina. Diciamo, tutti fanno così e tutti sbagliano, lo sento. No, io non sbaglio perché ho letto le istruzioni come fare. Tutti lo fanno, così stai abbondando, ne stai dando un pochettino di più, perché la benzina 2% vuol dire 98% di benzina e 2% di olio. Però tutti fanno 2%, fanno un litro e 2% di olio. La sta facendo leggermente più grassa, perché se tu consideri come vuole fatta proprio scientificamente, come ti dico io, 2% vuol dire due parti di olio e 98 parti di benzina, invece tutti fanno 100 parti di benzina e 2 parti di olio. Ma vabbè, io ti dico una cosa, già è meglio me, che se il motore è arrivato a un certo punto scaldano ed è un casino, per come la faccio io non ho mai ingrippato il motore. Tanto, diciamo, male non li fa, perché al limite ti sporca un po' più la combustione, la candela, ti fa leggermente più fumo. Anzi, è meglio metterla un pochino più grassa, gli fa meno danno che metterla più povera. Però però se tu, c'erano delle moto che c'erano la benzina anche al 5%, al 10%, cioè stiamo parlando di moto abbastanza complesse, e tu quando rimuni facevi il rapporto così per dire mettevi un litro di olio, o ci sono un litro di benzina e 10 cc di olio, alla fine cazzo lo fumo girava un bel, poi ci mettevano altri oli, metteva un fiago, l'olio il ricino, ricordo. Però se uno deve fare esattamente come dice le percentuali deve mettere, se a 2% 98 parti di benzina e 2 parti di olio. Se tu chiedi a tutti e ti sfido a chiunque, tutti fanno come stai facendo tu. Anziché metto un litro di benzina, metto 20 cc di olio, come, ma io preferisco farla così perché sono sicuro che non ho mai inciudato io. Però c'è anche da considerare una cosa che molti non sanno. Allora si usava l'olio minerale, si usava, e di olio ce ne voleva di più. Se una moto vecchia, tipo una Vespa, doveva essere fatta al 5, adesso la devi fare al 4, se no ti va di più fumo. Sì, adesso infatti le moto nuove, anche c'è da dire, però gli oli di adesso rispetto agli oli di 20 anni fa, di 30 anni fa, sono molto ma molto più fluidi, hanno un potere di lubrificazione superiore. Per dire, l'olio di 30 anni fa, tu per dire, la Vespa la faceva al 2%, però c'era la benzina, era leggermente più grassa. Se tu usi lo stesso olio con le benzine di adesso, l'aveva un 4 la benzina e la miscela, se no non va bene. Però c'è da dire che gli oli nuovi sono, hanno potere di lubrificazione molto ma migliore di quelli di una volta, per cui è quello il problema, cioè il problema è il vantaggio, per cui viene risolto dalla qualità dell'olio. Prima gli oli che facevano 5.000 km per le macchine, adesso ci sono oli che fanno 20-25.000 km da un cambio d'olio all'altro, sono molti centinaia. E poi la cosa bella che un dirigente sbaglia, non so se te ne sei mai accorto, te lo dico avanti. Che cosa? Che un ingrediente buono di rotto diverso. Allora tu quando vai a chiedere, tu c'hai la benzina per il decespugliatore, il decespugliatore molte volte ti danno proprio l'olio per il decespugliatore, c'è scritto per fare la miscela, ma se tu vai in certi distributori, in certi posti, dici mi dia l'olio per il motore a due tempi, il motore a due tempi a miscela, ti danno l'olio, una cosa è l'olio motore per motore a due tempi, un'altra cosa è l'olio per fare la miscela a due tempi, lo sai quanto è diverso l'olio, è tutta un'altra musica. Anche c'è molta gente lo usa, lo sai quanta gente va distrutta e mi serve l'olio per miscela di motore a due tempi e ti danno l'olio per miscela, quell'altro mi serve l'olio per motore a due tempi e ti danno l'olio motore, e molte volte ti danno l'olio motore per fare la miscela. La racconta a capo. Ma tu, se uno non lo sa queste cose, e per cui devi stare attento, tu magari stai mettendo la miscela al 2% come la metti tu, e stai usando, convinto di usare l'olio per miscela, per fare la miscela, ed è tutto diverso, perché i componenti che ci sono all'interno dell'olio per la miscela, per fare la miscela, sono completamente diversi dall'olio dell'olio dove ci sono temperature diverse. Nel cilindro ci sono temperature molto più alte che in parti dove c'è, per dire, gli ingranaggi dell'albero motore eccetera eccetera, ma dentro il pistone cacchio lì ci sono temperature altissime, infatti c'è il cilindro per dissipare calore, normalmente sono in ghisa o sono cromati dentro i cilindri per il pistone, lì arrivano temperature assurde. Ma a me lo vuoi dire, non lo so me, infatti già non mi compareggio, già metto solo olio a due tempi, metto e poi io compro l'olio sintetico e basta, no? Se mi dai olio minerale non te ne compro, no, ma manco bassogno, non manco bassogno. O sto usando, guarda, sto usando il Bardal, quello l'ho pagato 15 euro, l'ho pagato, e sono sicuro che non ingrippo perché c'ha anche delle proprietà tipo la Polar Plus, non so se la conosci, che protegge il motore e non ti dà problemi. O se non sto usando il Castrol Garden, quello che costa oltre 10 euro. Altri oli io non ne uso. Sì, no, cazzo, guarda, sono buoni. che siano di marche conosciute e abbiano le certificazioni. A chi Buruliginese si stanno mettendo a fare olio e a vendere olio anche a Bricomen, a Coso, Città Mercato, ma ci sono un bel di oli scadenti, sono oli riciclati di recupero, tu guardi le normative, c'è scritto conforme alla normativa API e ci sono tutti gli elenchi, ma ve ne sono solo tre le normative. Se ti guardi un olio Castrol, per dire un Selenia o cosa cazzo ti posso dire, cioè sono tanti oli buoni, Petronas eccetera, devi guardare, più ce ne sono di certificazioni più buono è l'olio. Sì, lo so bene. Bisogna bene, come andrà bene il gusto, cioè poi ingrippano motori, facciano in tutto. Io ce l'ho, il decispugliatore, ce l'ho la bellezza di 8 anni, non ho mai ingrippato una volta. Allora, mi stai attento, il problema del cespugliatore è uno soltanto, per tutto la cilindrata è bassissima, normalmente dai 45 ai 55 ai 58 centimetri cubi, il pistone è talmente sottile, è come che tu prendi una penna e ti poni a sfregare con una penna veloce, ti si scalda la mano, e così è, fai conto un cilindro, dentro un cilindro un pistone, che quei motori vanno anche a 13.000 giri ed è una cosa esorbitante la velocità, lavorano sempre a regimi alti, non è come una macchina, per dire tu normalmente lavori a metà acceleratore in modo che giri, non arrivi mai a 5.000 giri, stai sempre intorno ai 3.000, 2008. Il decespugliatore lavora il 90% del suo coso di lavoro, della sua attività, sempre al massimo della velocità, basta che tu trovi appena un secondo, non c'è lubrificato né grilli, ed è matematico che si crepa così. Se poi non metti un olio buono per risparmiare 3 euro o 5 euro di per un litro di olio, fai un danno, per dire il minimo decespugliatore costa 100 euro, poi ce ne sono anche da 1.000 e passa euro, figurati quasi sì. Io non ne ho mai rotto il cespugliatore, non ho mai facciato motore, mai, grazie a Dio in 8 anni a questa parte ho lavorato pure oggi, perché l'olio è buono e non uso la merda, la miscela la faccio, l'ho sempre fatta così e non ho mai grippato nulla, no, mai grippato, mai. Ma adesso il studiatore grippare è abbastanza, però sai cosa succede? La breve trasmissione, molte volte quando trovi roba dura, pum, i colpi che gli dai, perché stai tagliando il mano normale, ma se trovi qualche ramo grosso, qualche cosa rovo, questi contrappolvi